Trenitalia. Carta dei servizi 2003. Il nostro impegno con voi. Questa Carta dei servizi 2003 è un estratto dell'edizione integrale realizzato per consentire una maggiore diffusione delle informazioni e degli impegni pubblicati sul documento originale. Il testo completo è disponibile per la consultazione sul sito www.trenitalia.com presso le biglietterie, gli uffici informazioni in stazione, le principali agenzie di viaggio abilitate, i club Eurostar e le associazioni che dialogano con noi. Anche la Carta dei servizi regionali è stata pubblicata in una versione tascabile, diversa da regione a regione, che consente di conoscere più in dettaglio i risultati conseguiti e gli impegni assunti dalle singole direzioni regionali. Per informarsi meglio sui servizi e le offerte di Trenitalia, si può fare riferimento a orario in treno nazionale, informazioni a livello nazionale, orario in treno singola regione, in vendita al prezzo di 1 euro, contiene tutte le informazioni a livello regionale, uffici informazioni, biglietterie e agenzie di viaggi, call center Trenitalia 892021, solo dall'Italia e da telefono fisso, numero unico nazionale per servizi di informazione, vendita e prenotazione. Il costo è di 5,1 centesimi di euro alla risposta e 2,2 centesimi di euro al minuto, IVA esclusa. Numero verde Carta Amico Treno 800 100 650. Informazioni sulla carta e sui vantaggi riservati ai soci. Televideo. Sul servizio televideo delle principali reti televisive RAI da pagina 620 e Mediaset da pagina 510, diverse pagine dedicate agli orari dei treni, ai servizi offerti, alle offerte promozionali e al circuito Club Eurostar. Siti internet www.trenitalia.com per tutte le informazioni nazionali. www.regionale.trenitalia.it per tutte le informazioni di carattere regionale. www.cargo.trenitalia.it per tutte le informazioni sul trasporto merci. Tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti, la loro validità, la convalida e la durata, la penalità e il diritto fisso e i casi in cui queste non si applicano o si applicano in modo ridotto, sono disponibili sulla Guida del Viaggiatore, pubblicata anche sul sito internet www.trenitalia.com. La Carta dei Servizi. Il nostro impegno con voi. La Carta dei Servizi 2003 presenta al pubblico gli impegni e il piano di interventi che Trenitalia, attraverso le sue divisioni passeggeri, trasporto regionale e cargo, ha messo in atto per migliorare la qualità dell'offerta e il grado di soddisfazione dei clienti. Oltre a definire i nostri impegni con voi, la carta mostra, indicatore dopo indicatore, numero dopo numero, tutti gli obiettivi che ci proponiamo di conseguire nel 2003. La carta testimonia quindi un sistema di lavoro vincolato alla costante misurazione della qualità. Misurazione che non è effettuata solo dall'interno, ma è sempre integrata dalle indagini realizzate da qualificati istituti di ricerca che, almeno una volta all'anno, provvedono alla valutazione dei livelli di soddisfazione della clientela. I principi fondamentali della Carta dei Servizi. Nessuna discriminazione. Il servizio offerto da Trenitalia riconosce a tutti i clienti eguaglianza di diritti. La scelta di operare senza alcuna discriminazione si manifesta anche attraverso l'impegno per facilitare la mobilità dei viaggiatori disabili. A tale scopo, nell'orario in treno, sono esplicitamente indicati sia i treni con carrozze attrezzate sia le località dove sono attivi gli appositi servizi di assistenza. Continuità del servizio. I servizi ferroviari sono offerti tutti i giorni dell'anno. Fanno eccezione alcuni treni periodici, indicati nell'orario in treno. Su alcune relazioni o in alcuni particolari periodi dell'anno, i collegamenti sono garantiti con autoservizi sostitutivi. Gli spostamenti vengono assicurati anche in caso di sciopero attraverso dei servizi minimi garantiti, esplicitamente indicati in un capitolo dell'orario in treno e sul sito www.trenitalia.com. Partecipazione. Il rapporto con il cittadino consumatore costituisce un punto irrinunciabile dell'orientamento al cliente da parte di Trenitalia, che si impegna, pertanto, a garantire al massimo il diritto all'informazione, a organizzare occasioni di confronto e valutare critiche, proposte e suggerimenti provenienti sia dai singoli clienti che da associazioni di consumatori. Efficienza ed efficacia. Trenitalia si impegna ad adottare le misure in grado di favorire la progettazione, la produzione e l'offerta del servizio nell'ottica di un continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. Trenitalia. Trenitalia, nata il 1 giugno del 2000, è la società di trasporto del gruppo Ferrovie dello Stato. La sua missione è quella di assicurare un'offerta di servizi in grado di soddisfare, in ambito nazionale ed europeo, le esigenze di mobilità dei viaggiatori, sia di media e lunga percorrenza che in ambito metropolitano e regionale, e quello delle merci. Tra le principali aziende europee di trasporto ferroviario, Trenitalia agisce da impresa consapevole che l'unico parametro su cui deve misurarsi un'impresa efficiente e moderna è il cliente e la sua soddisfazione. Alla base della sua missione, la società pone la sicurezza, la qualità del servizio e la centralità del rapporto con la clientela. Trenitalia è articolata in tre strutture operative specializzate per settori di mercato. La divisione passeggeri, che si occupa del trasporto sulle medie e lunghe percorrenze, servizi Eurostar, Intercity e Notte. La divisione trasporto regionale, responsabile dei servizi in ambito metropolitano e locale, treni regionali, diretti e interregionali. La divisione cargo, dedicata al trasporto delle merci. L'unità tecnologie materiale rotabile, UTMR, fornisce invece assistenza tecnica e specialistica alle tre divisioni. Con questi numeri al vostro servizio. Numero dipendenti, 58.000. Treni giorno, oltre 8.000. Viaggiatori giorno, oltre 1.300.000. Merci anno, in tonnellate, 83.200.000. Investimenti per la qualità. Per assicurare un servizio di qualità sempre più elevata, Trenitalia sta attuando un consistente piano di investimenti di circa 4.400 milioni di euro, con lo scopo di rinnovare nel periodo 2002-2005 il proprio parco rotabili. Questi investimenti andranno ad arricchire il parco con l'acquisto e la messa in circolazione di nuovi treni, locomotive e carri, ma anche attraverso la ristrutturazione di carrozze. In particolare è prevista l'ammissione di nuovi ETR 500, i treni ultima generazione predisposti per le linee ad alta velocità, alta capacità, nuovi TAF, treni comodi e rapidi per il trasporto regionale. Inoltre, nel 2004 farà parte della flotta il nuovo Minuetto, treno prodotto con le tecnologie più avanzate e progettato con caratteristiche tali da poter soddisfare le esigenze di comfort per il trasporto locale e regionale. La centralità del cliente. L'obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato di soddisfazione per tutti. In primo luogo i clienti, ma anche gli azionisti, i cittadini, i dipendenti, i fornitori. Per realizzarlo è necessario consolidare e sviluppare il cambiamento in atto, che mira a orientare al mercato e al cliente l'intera organizzazione. La centralità del cliente è infatti un valore assoluto per Trenitalia. Di questo il personale tutto, ad ogni livello dell'organizzazione, è pienamente consapevole. Per questo ciascun ferroviere è coinvolto nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi e, in altre parole, in quello spirito di servizio che potrà consentire di essere ogni giorno di più in sintonia con le aspettative della clientela. Gli impegni che Trenitalia ha assunto fin dalla sua nascita sono: elevare gli standard di qualità delle varie componenti del servizio, offrire servizi differenziati in funzione delle aspettative e delle esigenze dei diversi interlocutori, efficientare i processi industriali della produzione per migliorare il livello di qualità anche in termini di affidabilità degli elementi tangibili del servizio, rotabili, biglietterie, eccetera. La capacità di onorare tali impegni dipende da molteplici elementi organizzativi, dall'insieme e dall'ottimizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie, dalla capacità di leadership piuttosto che dalla gestione dei fornitori, in estrema sintesi, dalla realizzazione di un efficiente, efficace e flessibile sistema gestionale. È proprio in questo senso che si indirizzano tutte le iniziative dell'impresa, poiché fanno parte di un complessivo piano che, migliorando progressivamente il gradimento sui servizi offerti, punta al raggiungimento dell'eccellenza su ciascuno dei fattori da cui dipende la percezione del cliente. Qualità europea. Questo impegno di Trenitalia è testimoniato dalle iniziative messe in atto per l'adozione di sistemi di gestione per la qualità conformi alle normative internazionali ISO 9000 e che rientrano nel percorso fatto di azioni, investimenti e metodi coerenti con il modello europeo per l'eccellenza definito dall'European Foundation for Quality Management, EFQM. Per migliorare la qualità bisogna misurarla. La qualità dei servizi è determinata da una somma di fattori. Tutti i parametri utilizzati per definire i nostri obiettivi sono costantemente monitorati. Inoltre, almeno una volta l'anno, affidiamo a primari istituti la misura del gradimento dei nostri servizi presso la clientela. Per il segmento viaggiatori, le ricerche di mercato sono basate su un impianto di assoluto rigore scientifico, i cui risultati sono espressione di circa 20.000 interviste. I principali risultati del monitoraggio delle performance e delle indagini sulla soddisfazione del cliente vengono pubblicati l'anno successivo in un apposito capitolo dell'edizione integrale della Carta dei Servizi, che è consultabile sul sito internet www.trenitalia.com. I fattori che determinano la qualità del servizio. L'attenzione per l'ambiente. Trenitalia opera per ridurre l'impatto ambientale connesso alle sue attività. L'impegno dell'azienda è quindi volto a promuovere il treno in quanto mezzo di trasporto meno inquinante, con iniziative come il treno verde, avviare sistemi di gestione ambiente sicurezza del lavoro secondo gli schemi internazionali ISO 14001 e OSAS 18001, utilizzare per le linee non elettrificate nuovi carburanti che inducano ulteriormente le emissioni inquinanti, ridurre il rumore adottando nuovi sistemi frenanti, migliorando la manutenzione delle superfici di contatto ruota-rotaia, low noise train, realizzando e attivando marmitte a controllo attivo del rumore, diminuire i consumi, impiegando al meglio risorse energetiche e materie prime, controllare sistematicamente tutte le sostanze che potrebbero produrre effetti dannosi per il suolo, l'acqua e l'aria, recuperare i sottoprodotti e i rifiuti derivanti dall'attività svolta, utilizzare fonti di energia rinnovabile, sperimentando pannelli solari sui treni, PV Train. Nel luglio del 2002, Trenitalia ha pubblicato il suo primo rapporto ambientale. Il documento, che contiene l'enunciazione delle politiche e degli obiettivi ambientali, definisce il codice di comportamento dell'azienda e fornisce molti dati e informazioni specifiche riguardanti la gestione dei rifiuti, la depurazione delle acque, nonché i programmi seguiti e i risultati ottenuti nel processo di bonifica dei rotabili dall'amianto. Il rapporto è disponibile sul sito internet www.trenitalia.com. Integrazione modale. Facilitare la realizzazione di forme di collegamento tra le diverse modalità di trasporto è un preciso obiettivo di Trenitalia, testimoniato da la creazione di nuovi parcheggi e l'impegno a realizzarne altri 60 entro il 2006, oltre 60 accordi di integrazione tariffaria tra il treno e gli altri mezzi del trasporto locale realizzati nelle diverse regioni. La disponibilità del servizio auto al seguito tutto l'anno su tutti i principali collegamenti nazionali e internazionali. La possibilità di noleggiare un'automobile presso le principali stazioni. L'offerta del servizio treno più bici disponibile sulla maggior parte dei treni della divisione trasporto regionale. Lo sviluppo di collegamenti ferroviari diretti tra stazioni e aeroporti. Roma Termini con l'aeroporto di Fiumicino, Palermo Trapani con l'aeroporto di Punta Raisi, Firenze, Empoli, Pisa, Livorno con l'aeroporto Galilei di Pisa. L'importanza dei parcheggi. Per ridurre i tempi di spostamento e rendere più facilmente fruibili i propri servizi, Trenitalia, in collaborazione con le altre società del gruppo e con gli enti locali interessati, si sta impegnando nella riconversione di numerose aree site in prossimità delle stazioni in nuovi parcheggi per auto, bici e moto. In circa 120 località è possibile la sosta giornaliera o in abbonamento riservata in via prioritaria agli abbonati del trasporto regionale. Nelle principali stazioni, interessate dal traffico di viaggiatori della media e lunga percorrenza, Trenitalia e il gruppo FS sono fortemente impegnati per migliorare la situazione e hanno avviato un progetto che prevede in 4 anni la realizzazione di oltre 60 nuovi parcheggi con un incremento di circa 10.500 nuovi posti. Sicurezza patrimoniale. Sia a bordo dei treni che in stazione, le attività di prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini sono istituzionalmente affidate alla Polizia Ferroviaria. Per garantire ulteriormente la sicurezza dei propri clienti e dei beni di loro proprietà, Trenitalia cura l'individuazione e il monitoraggio dei treni considerati a rischio, sia notturni sia diurni, al fine di concordare con la Polfer i necessari incrementi delle scorte. Nei maggiori siti ferroviari, Trenitalia ha affidato la sorveglianza di particolari aree di stazione a istituti di vigilanza privata e ha predisposto sistemi di telesorveglianza. In ogni caso, al personale ferroviario è affidato anche il compito di vigilare sulla sicurezza dei viaggiatori, tenendosi in diretto contatto con le forze dell'ordine. Sicurezza del viaggio. Il lavoro svolto negli ultimi anni in tema di sicurezza dell'esercizio ferroviario ha riguardato tutti i settori del gruppo Ferrovie dello Stato. La strategia di Trenitalia, attraverso il sistema di gestione della sicurezza di cui l'azienda si è dotata, mira a confermare l'andamento positivo di diminuzione degli incidenti registrato negli ultimi anni, migliorando ulteriormente gli attuali indici di sicurezza che pongono le ferrovie italiane tra le più sicure d'Europa. Trenitalia attua la sua strategia per la sicurezza attraverso investimenti per l'adozione dei più tecnologicamente evoluti dispositivi e sistemi di controllo della circolazione dei treni. Miglioramento continuo della formazione e dell'aggiornamento del personale. Analisi della dinamica degli incidenti e delle situazioni di pericolo, al fine di individuarne le cause primarie ed eventualmente aggiornare le procedure lavorative previste. Adozione delle più moderne tecnologie telematiche per ottimizzare la comunicazione interna. Campagne di informazione alla clientela per prevenire le situazioni di pericolo ed evidenziare i comportamenti corretti da adottare in ambito ferroviario. Adozione di misure di prevenzione degli incendi del materiale rotabile. Oltre a queste misure di carattere generale, procedure specifiche sono adottate per il trasporto delle merci pericolose, TMP. Servizi per i viaggiatori disabili. Il 2003 è stato proclamato Anno Europeo dei Disabili dal Consiglio dell'Unione Europea per promuovere l'applicazione dei principi di non discriminazione, di pari opportunità e di integrazione dei cittadini disabili. Coerentemente con questi principi, l'attenzione di Trenitalia nei confronti del cliente disabile si concretizza nella realizzazione, a bordo e nelle stazioni, di strutture e servizi in grado di consentire un più facile accesso al trasporto ferroviario a questi viaggiatori. Attualmente sono circa 1.200 i treni al giorno attrezzati per garantire la mobilità dei viaggiatori disabili. Le carrozze attrezzate sono contrassegnate dall'apposito pittogramma e oltre 180 le stazioni in cui è presente un servizio di assistenza che, a richiesta, assicura la messa a disposizione di sedie a rotelle, guida e accompagnamento in stazione, salita e discesa dal treno. Il servizio offre anche informazioni e prenotazione dei posti riservati. Il servizio di assistenza è garantito nelle stazioni elencate nell'orario in treno con le modalità, le condizioni e le tipologie di servizio in esso indicate. L'impegno di Trenitalia a favore della clientela disabile è confermato anche dall'inserimento nei percorsi formativi del personale di contatto di specifici interventi sui temi della disabilità realizzati in collaborazione con le principali associazioni, con le quali sono attivi tavoli permanenti di confronto. Informazioni più dettagliate su servizi e tariffe riservate alla clientela disabile sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, sull'orario in treno e su appositi opuscoli, anche in versione braille e in audiocassetta, reperibili presso i centri di accoglienza delle principali stazioni e presso le maggiori associazioni nazionali di tutela delle persone disabili. Dal 2002, inoltre, a beneficio della clientela non vedente e di quella con disabilità agli arti superiori, è iniziata la distribuzione di un software registrato su CD-ROM che consente, tramite comandi vocali, la navigazione tra le informazioni disponibili online. Stazioni con servizi di assistenza per viaggiatori portatori di handicap. Chiamando i seguenti numeri telefonici regionali, è possibile prenotare il servizio e avere informazioni sulle stazioni abilitate. Ancona Centrale 071 45521. Bari Centrale 080 5240 148. Bologna Centrale 051 63 03 132. Cagliari 070 6794 449. Firenze Santa Maria Novella 055 23 52 275. Genova Porta Principe 010 27 43 775. Messina Centrale 090 71 49 35. Milano Centrale 02 67 07 09 58. Napoli Centrale 081 56 72 991. Reggio Calabria Centrale 0965 27427. Roma Termini 06 48 81 726. Torino Porta Nuova 011 66 90 447. Trieste Centrale 040 44 705. Venezia Santa Lucia 041 78 55 70. Verona Porta Nuova 045 59 04 03. I numeri dei centri di accoglienza disabili possono essere richiesti anche al numero 89 20 21 di FS Informa. La divisione passeggeri. La divisione passeggeri di Trenitalia assicura il trasporto dei viaggiatori sulle medie e lunghe distanze, realizzando la politica commerciale del settore fissando orari e condizioni di viaggio, promuovendo i diversi prodotti sul mercato e garantendo la concorrenzialità rispetto agli altri vettori. Servizio Eurostar Italia. Il servizio Eurostar Italia assicura spostamenti veloci tra le maggiori città italiane e rappresenta l'offerta di qualità di Trenitalia. Il servizio è caratterizzato da elevati standard di comfort e velocità dei treni utilizzati, cadenzamento orario e biorario per i collegamenti tra i principali centri del paese, sistema dedicato di accoglienza in stazione e a bordo, innovazione nei sistemi di vendita e informazione. Servizio Intercity. Con una diffusione capillare sul territorio, il servizio Intercity Eurocity rappresenta l'offerta più versatile di Trenitalia e copre di fatto tutta la rete principale, collegando anche città non capoluogo di provincia. Servizio notte. I servizi notturni sono erogati sulle relazioni internazionali e sulle principali relazioni nazionali di lunga percorrenza con treni Intercity Notte, Euronight ed Espressi, composti da vetture composte a sedere, cuccette tradizionali e comfort, vagoni letto. Su alcune direttrici e in particolari periodi dell'anno è attivo il servizio per il trasporto di auto al seguito del viaggiatore. Qualità, un percorso di miglioramento. Con la carta dei servizi, la divisione passeggeri ha da tempo stipulato con i clienti un contratto. Migliorare il livello di qualità dei propri servizi impegnandosi a mantenere le promesse fatte. Nel 2002, con qualche eccezione, queste promesse sono state mantenute. Per rinnovare questo patto anche nel 2003, la divisione passeggeri prosegue il percorso di miglioramento individuato affrontando vecchie e nuove sfide come progettare e sviluppare i sistemi di gestione per la qualità negli impianti operativi e commerciali e procedere alla loro progressiva certificazione secondo la norma ISO 9001. Sviluppare azioni di miglioramento e innovazione dei processi critici che consentano il raggiungimento della piena soddisfazione della clientela e delle altre parti interessate adottando gli strumenti propri della qualità totale. Diffondere la cultura del cambiamento attraverso la comunicazione e la formazione per favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le persone che lavorano nella divisione passeggeri. Affinare progressivamente il sistema di monitoraggio delle prestazioni, che vede coinvolti più attori e più responsabilità, nell'individuazione degli indicatori della qualità erogata e nella definizione dei relativi standard promessi. Adottare il modello EFQM, European Foundation for Quality Management, come strumento del cambiamento. Nei punti seguenti sono riportati gli obiettivi e gli impegni che la divisione passeggeri sottoscrive per il 2003. Fattori, indicatori e standard della qualità del servizio. Gli obiettivi 2003 si riferiscono al periodo 1-10-2002-30-09-2003. Sono esclusi dal conteggio i treni con ritardo superiore a 15 minuti, per i quali sono state identificate come non dipendenti né da Trenitalia né da RFI le cause che hanno generato la maggior parte del ritardo, superiore al 50%. Obiettivi 2003 per la puntualità dei treni. Treni Eurostar con ritardo all'arrivo entro 15 minuti, 91%. Treni Eurostar con ritardo all'arrivo entro 30 minuti, 96%. Treni Eurostar con ritardo all'arrivo entro 60 minuti, 99%. Treni media-lunga percorrenza con ritardo all'arrivo entro 15 minuti, 87%. Treni media-lunga percorrenza con ritardo all'arrivo entro 30 minuti, 93%. Treni media-lunga percorrenza con ritardo all'arrivo entro 60 minuti, 98%. Questo fattore risulta in parte di competenza diretta della divisione passeggeri, in parte delle altre divisioni, nonché del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, RFI, Rete Ferroviaria Italiana. La divisione passeggeri si impegna comunque a perseguire il rispetto degli standard attualmente fissati, nonostante l'intensificarsi nel corso del 2003 delle attività di manutenzione e sviluppo della rete ferroviaria. E se il treno è in ritardo, ci scusiamo con un bonus. Obiettivi 2003 per la regolarità del servizio. Treni soppressi, limitati o giunti a destinazione con ritardo superiore a 2 ore, 1,95%. Sono esclusi dal conteggio i treni per i quali sono state identificate cause esterne che abbiano generato interruzioni di linea di durata superiore a 72 ore continuative, ovvero per cause di sciopero. Si intende per treno soppresso un treno programmato che non circola per l'intero percorso. Si intende per treno limitato un treno che circola parzialmente sul percorso programmato. La divisione passeggeri si impegna ad assicurare un servizio regolare. Possono comunque verificarsi disfunzioni nel servizio riconducibili sia a cause dipendenti da Trenitalia sia a cause esterne. In ogni caso, l'impegno della divisione passeggeri è teso a ridurre al minimo il disagio dei clienti. Per questo, di fronte ad anormalità nella circolazione dei treni, la divisione si attiva organizzando il proseguimento del viaggio nei modi e tempi possibili. Come superare l'imprevisto? La linea è interrotta? Si prosegue su un'altra via, con altri treni, esclusi cuccette e vagoni letto, o con servizi sostitutivi, senza pagamento di eventuale differenza di prezzo, previa richiesta al personale di bordo. Nel caso in cui il cliente rinunci a proseguire il viaggio, gli è riconosciuto il rimborso integrale per la tratta non utilizzata. Nel caso in cui sia impossibile proseguire per altra via, il cliente viene riportato senza ulteriori spese alla stazione di partenza o a un'altra stazione intermedia. Il treno è soppresso? Si prosegue con un altro treno, anche di categoria superiore, esclusi cuccette e vagoni letto, o per altra via senza ulteriori spese, previa richiesta al personale di bordo. Nel caso in cui il cliente rinunci a proseguire il viaggio, gli è riconosciuto il rimborso integrale del biglietto o della parte di biglietto non utilizzata. Non si verifica la coincidenza per ritardo del treno in arrivo? Si prosegue con un altro treno, anche di categoria superiore, esclusi cuccette e vagoni letto, o per altra via senza ulteriori spese, previa richiesta al personale di bordo. Nel caso in cui il cliente rinunci a proseguire il viaggio, gli è riconosciuto il rimborso integrale del biglietto o della parte di biglietto non utilizzata. Non si verifica l'ultima coincidenza serale? La assicuriamo anche attraverso servizi sostitutivi. Se risulta comunque impossibile proseguire il viaggio, la divisione passeggeri assicura a proprie spese il pernottamento e il proseguimento il giorno successivo con un altro treno, anche di categoria superiore, esclusi cuccette e vagoni letto, o per un'altra via senza ulteriori spese. Obiettivi 2003 per la pulizia. Interventi di pulizia effettuati durante il viaggio dei treni media-lunga percorrenza. 152. Il dato esprime il numero medio giornaliero, calcolato su base mensile, di treni media-lunga percorrenza diurni e notturni provvisti di personale viaggiante addetto alla pulizia per almeno il 15% treni diurni e il 10% treni notturni del tempo di viaggio previsto dalla stazione di origine alla stazione di destinazione finale. L'impegno della divisione passeggeri per il mantenimento della pulizia e delle condizioni igieniche a bordo dei treni è costante. L'obiettivo è di allineare i propri standard a quelli dei migliori operatori a livello europeo. La misurazione del livello raggiunto, oggetto di quotidiani controlli sulle prestazioni erogate, è verificata anche attraverso le rilevazioni periodiche sulla soddisfazione della clientela. Dal 2001 presta servizio sui treni un assistente di bordo per la pulizia, che ha il compito di assicurare nel corso del viaggio e sui treni a maggiore affluenza di viaggiatori un adeguato livello di pulizia e decoro. Dalla fine del 2002, in via sperimentale per i servizi notturni, la divisione passeggeri ha introdotto un servizio di pulizia delle toilette effettuato durante le soste principali. Obiettivi 2003 per il comfort del viaggio. Impianti di climatizzazione funzionanti su Eurostar in circolazione, 88%. Percentuale di impianti funzionanti in entrata in officina prima della visita tecnica periodica. Impianti igienici funzionanti su Eurostar in circolazione, 83%. Percentuale di impianti funzionanti in entrata in officina prima della visita tecnica periodica. Impianti di climatizzazione funzionanti su Intercity ed Eurocity in circolazione, 97%. Percentuale di impianti funzionanti in uscita dall'officina dopo visita tecnica periodica. Affollamento a bordo 96%. Percentuale di passeggeri trasportati su treni che hanno disponibilità di posti non esaurita. Treni circolanti con meno di 10 anni di servizio 37%. Fornire le migliori condizioni di viaggio è una delle nostre principali preoccupazioni. Accessibilità, funzionalità e capacità delle vetture sono tutti aspetti che incidono non solo sulla qualità del servizio, ma attraverso questa vanno a influire sulla qualità della vita. La divisione passeggeri ha posto particolare attenzione all'ottimale funzionamento degli impianti di climatizzazione e degli impianti igienici, effettuando un costante monitoraggio delle loro funzionalità presso le proprie officine di manutenzione. Nell'intento di fornire servizi di maggiore qualità non solo in termini di comfort di viaggio, ma anche di sicurezza ed efficienza dei mezzi, la divisione passeggeri mantiene vivo il suo impegno a rinnovare il parco rotabile di sua competenza. Il piano di riqualificazione dei materiali in esercizio appena avviato prevede interventi di trasformazione sia parziale che totale. Sulla flotta degli ETR 500 sono previsti interventi sulle toilette, la sostituzione dei tavolini, l'installazione di schermi video nei saloni e di prese elettriche al posto per la prima classe. Per gli ETR 450 e 460 sono previste operazioni di ripristino del decoro. Il piano prevede anche il rinnovo di un numero consistente di carrozze dedicate ai servizi intercity e ai servizi notte, attraverso interventi sugli ambienti interni, nuova illuminazione, sostituzione tessuti, pellicolazione dei pannelli delle pareti, rinnovo delle toilette, eccetera. Obiettivi 2003 per le informazioni alla clientela. Treni media lunga percorrenza con impianti di diffusione sonora, 75%. Funzionamento impianti di diffusione sonora sui treni Eurostar, 92%. Il dato esprime la percentuale di carrozze Eurostar con impianto di diffusione sonora funzionante in modo efficace in entrata in officina prima della visita tecnica periodica che avviene mediamente ogni 3-5 giorni. Efficacia dei servizi di informazione telefonica, 86%. Il dato esprime la percentuale di telefonate con attesa alla risposta inferiore ai 20 minuti. L'informazione è una componente imprescindibile del servizio. Nelle stazioni, la divisione passeggeri mette a disposizione avvisi, comunicati, quadri orario, sportelli dedicati e quant'altro serva per dare tempestive informazioni. A bordo, le informazioni sono fornite dal personale, anche attraverso gli impianti di diffusione sonora presenti su un numero crescente di treni. Per consentire la massima facilità nel reperire le informazioni sui servizi offerti, la divisione passeggeri mette a disposizione della clientela i numerosi strumenti e canali di comunicazione. Obiettivi 2003 per il livello di servizio nelle operazioni di sportello. Dotazione complessiva di biglietterie automatiche, 2,45. Il dato esprime il numero medio di biglietterie automatiche nelle stazioni presenziate dalla divisione passeggeri. Biglietterie automatiche funzionanti nelle stazioni della divisione passeggeri, 92%. Il dato esprime la percentuale di giornate di funzionamento per ciascuna biglietteria automatica installata. Agenzie di viaggio con collegamento in tempo reale abilitate alla emissione di biglietti e prenotazioni, 2.500. Numero complessivo assoluto al 39.2003. Vengono considerate in tempo reale le agenzie collegate direttamente al sistema SIPAX e le agenzie satellite collegate al terminale SIPAX di agenzie direttamente collegate al sistema. Biglietteria self-service, biglietteria online, ticketless. Tecnologia che semplifica la vita. Biglietterie self-service. Presenti in tutte le stazioni della divisione passeggeri, le biglietterie self-service consentono di ottenere informazioni su tutti i collegamenti ferroviari nazionali, acquistare i biglietti, ritirare un biglietto precedentemente acquistato tramite la biglietteria online o il call center 892021, ritirare l'attestato del cambio di prenotazione precedentemente effettuato sul sito internet, il pagamento delle operazioni effettuate con queste biglietterie può essere effettuato in contanti oppure con bancomat, carta di credito. Biglietteria online. Collegandosi al sito internet www.trenitalia.com si può accedere ai servizi della biglietteria online, che consente di acquistare, pagando con la carta di credito, biglietti e prenotazioni per treni Intercity, Eurostar e per i treni notte con servizio cuccette o vagoni letto. La biglietteria è operativa dalle 6.30 alle 23.30. Il biglietto può essere recapitato a casa con lettera raccomandata pagando 3,36 euro per le spese postali, oppure ritirato presso qualsiasi biglietteria self-service utilizzando il codice di prenotazione PNR fornito dal sistema. Ticketless è una nuova modalità di acquisto che consente di acquistare il biglietto online o via telefono pagando con carta di credito. L'emissione materiale del biglietto avviene gratuitamente a bordo treno, presentando il codice di prenotazione PNR e un documento di identità. Il servizio, in via sperimentale, è attualmente operativo solo per i passeggeri di prima classe in partenza da Roma o da Milano, sulla relazione Roma-Milano, da Milano o da Venezia, sulla relazione Milano-Venezia.